gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci turne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.